Uno, nessuno, nessuno, 100 Milan. Alessandro Milan sta arrivando su Radio 24. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci signori per una nuova settimana di Uno Nessuno 100.000 nel lunedì 22 giugno. Ci siamo anche oggi con voi fino alle 11 per tenervi compagnia. Voi ci siete con l'800240024, avete l'opportunità di dircelo chiamandoci, oppure 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, WhatsApp, WhatsApp audio, tutto quello che volete. 100 Milan, chiocciola, radio24.it è la vostra mail e anche la nostra, così vi leggiamo. Cari ascoltatori, c'è l'Alpino in regia, affiancato oggi da Danilo Di Trani, che so che è tutto in fibrillazione, per lavora con come Lukaku, si direbbe in per politica. No, il no, tocco no, ma per non Lautaro, per questo, ma per il nerazzurra, gioco il che riprende per i ragazzi rossoneri questa sera a Lecce, ore 19.30, credo 19.30, non lo so, comunque è tutto lì, che non sta più nella pelle Danilo Di Trani. Non so perché avete mandato un gol di un amichevole infrasettimanali di un'altra squadra, non mi interessa, non voglio saperlo. Saluto anche Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, con voi siamo qui a parlare di tanti temi. Prima dei temi molto importanti, però, vogliamo partire in un modo diverso. Vai Alpino. Enthusiasm about the future. E come vogliamo aprire? Sapete che qua io lancio degli stimoli, dei dibattiti che dividono un po' le persone, così dibattiamo, ci confrontiamo in maniera molto amichevole, molto cordiale e molto civile, anche se combattiva. C'è però effettivamente una persona e un tema che sta unendo tutta l'Italia. È la vicenda di Alex Zanardi, tra l'altro avete sentito poco fa, c'è stato anche un nuovo bollettino, condizioni stabili, dicono i medici, questa è la settimana chiave per capire come procederà e come cosa accade dopo l'operazione, dopo il terribile incidente che ha visto vittima Alex Zanardi, e vogliamo partire da qui. Ne ha parlato anche il Premier Conte, chiudendo gli stati generali, ha voluto dedicare un pensiero ad Alex Zanardi, lo vogliamo sentire. Permettetemi di rivolgere un pensiero, di mandare un abbraccio ad Alex Zanardi per il suo coraggio, la sua forza d'animo, la sua capacità di resilienza. È l'esempio della migliore Italia, che sa esprimere non solo grandi campioni, ma grandi uomini. E su questo io credo che tutti possiamo essere d'accordo. Alex Zanardi è un grande che unisce, è incredibile ed è bello, è una cosa bella, unisce tutti nella vicinanza, nel dire forza Alex, ce la devi fare, come ce l'ha fatta a superare un terribile incidente diversi anni fa. Io per questo voglio ripartire da lui, perché noi a fine settembre, ottobre, prima del lockdown, insomma, quando era iniziata da poco la stagione, avevamo avuto la fortuna, il privilegio di poterlo intervistare. L'avevo chiamato alla fine, dopo una delle tante imprese che Alex Zanardi ha fatto da Iron Man. Ebbene, vogliamo riproporvi uno stralcio di quell'intervista per dire forza Alex, vai. Sono una persona che ha dei limiti, li ho sempre avuti, anzi io credo che nello sport, nella mia avventura sportiva lunghissima, mi sono spesso guardato dentro proprio temendo di non essere all'altezza, e questo mi ha portato in tante occasioni a magari a prepararmi con un impegno ancora superiore, proprio perché convinto che sarei andato a sfidare gente più brava di me. Io sarei potuto riuscire a così a inserirmi nella battaglia magari con una preparazione migliore, e forse questa è stata anche la mia forza in certi momenti. Dopodiché oggi che ho qualche capello bianco in testa, sicuramente sono meno attrezzato da un punto di vista di forza e resistenza. Una delle mie forze è la capacità di gestire le mie risorse, il fatto di dire io sono arrivato fin qui, mi conosco, so che cosa ho a disposizione e faccio quel che posso, nulla di di più, ma nemmeno nulla di meno, ecco. Quante volte Zanardi, se posso chiedere, pensa a quel 15 settembre 2001 e se le chiedo, il 15 settembre di ogni anno che succede? E fu il giorno ovviamente dell'incidente in cui perse le gambe. Ma nulla di particolare, per fortuna la mia vita continua, non è una nuova quella che mi è stata data in dote, come dire, è andata bene perché francamente riaprire gli occhi dopo quel che è accaduto è stato un po' contro il pronostico della scienza. Io ho avuto 7 arresti cardiaci, sono sopravvissuto con meno di un litro di sangue per più di 50 minuti, è un qualche cosa che è tuttora difficile da spiegare da un punto di vista scientifico. Sì. Però è accaduto e così va bene, insomma. Così va bene. Si è andata così. Poi insomma è anche un po' quello che racconta i ragazzi nelle scuole, perché loro quando gli parlo di passione e curiosità mi guardano e mi dicono: sì, ho capito, ma te guidi delle BMW bellissime nelle corse, fai gli Ironman, fai le Olimpiadi. E io dico: sì ragazzi, avete ragione, però è anche vero che se io non avessi saputo appassionarmi a ciò che occorreva fare per ripartire nella vita, non sarei qui oggi, non sarei qui sì. ad aver trasformato ciò che è accaduto nella mia più grande opportunità di vita. Esserci riuscito nel mio caso è stato, ad esempio, cercare un punto di contatto tra la sospensione di un'auto da corsa e un ginocchio protesico, riconoscere la genialità del tecnico che l'aveva progettato. Da lì io sono partito e ho reso appassionante ciò che dovevo fare. Io credo che anche i ragazzi possono riuscire a fare lo stesso. Magari dalla letteratura, dalla matematica, utilizzando anche il percorso scolastico come una delle più grandi opportunità che i ragazzi possono avere. È questa la lezione di Alex Zanardi: trasformare ogni evento, anche quello avverso, in una opportunità, in un nuovo modo per riappassionarsi. Davvero forza Alex, io credo che tutta l'Italia, ma anche gran parte del mondo, perché è conosciuto in tutto il mondo, è uno dei pochi che è andato ospite anni fa al David Letterman Show, già tanto per capire, credo che gran parte del mondo sia stretto in un abbraccio ad Alex, alla famiglia, nella speranza di rivederlo combattivo come l'abbiamo conosciuto ben presto. Speriamo davvero. Allora, cari ascoltatori, e poi c'è l'Italia. È l'Italia qui con i temi di cui dibattere. Ne ho visti due. Allora, io questa cosa dell'IVA, guardate, ho un po' davvero la sensazione, come ci ha detto Nando Pagnoncelli venerdì scorso, ricordate, è stato nostro ospite, il presidente di Ipsos, e ci ha detto: ormai i politici, ma non ormai adesso, ormai da un po' di anni, è un piano inclinato nel quale siamo scivolati, stiamo scivolando anno dopo anno, ormai i politici puntano non alla visione a 10 anni o a 10 mesi, ma alla visione a 10 giorni, cioè si pensa alla scadenza elettorale imminente, ci sono le regionali. Ecco, quando io ho visto la questione della proposta del taglio dell'IVA ho pensato un po' a questo, cioè non come vorrei io, lo so che è una battaglia utopica quasi, un politico che dice: signori, abbiamo deciso di tagliare l'IVA per 10 miliardi. Annuncio, si fa. No, è un'idea su cui ragioniamo, ma vedremo in settimana. La sensazione è sempre quella, cioè l'idea di buttare lì un'idea, vedere l'effetto che fa, vedere le reazioni. Magari è già pronto un sondaggio prêt-à-porter, giusto per vedere come si orientano le reazioni su questo, e poi si deciderà. Che è stato un po' come per la scuola: e mettiamo il plexiglass, se non riapriamo e riapriamo no, e riapriamo a orari del pomeriggio. Cioè si buttavano lì delle idee, poi si vedeva la reazione, spesso francamente basita, dell'opinione pubblica, e allora si diceva: ma no, ma era solo un'idea, non c'era niente di vero in realtà in tutto questo. Vedremo se ci sarà il taglio dell'IVA. Dopodiché l'altro dibattito, e che ci porta al primo ospite, al tema coronavirus, al tema epidemia, beh, l'avete visto su vari giornali e anche nella stampa di Simone Spezia, la gente comincia un po' a infischiarsene dell'idea coronavirus. Spiagge piene, treni per la Liguria assaltati, distanze sociali annullate, dottori anche oggi, l'immunologo Le Foche che dice al Quotidiano Nazionale la pandemia è alla fine, l'Italia si deve adeguare, l'OMS che dice no, state attenti, sciagurati i tifosi del Napoli, e torniamo alle questioni. L'unica cosa che mi infastidisce è questa. Sembra, adesso vi prego, non iniziate a trasformare il solito dibattito politico per cui la mascherina e il rispetto delle regole del distanziamento sociale sarebbe un atteggiamento di sinistra, mentre il me ne frego, chi se ne frega del virus, viva tutti in spiaggia, smettetela di terrorizzarci, sarebbe un atteggiamento di destra. Insopportabile questo dibattito, insopportabile. Però a vedere i giornali sono un po' schierati così, guarda il titolo di apertura di Libero, la gente se ne frega, italiani tutti al mare se ne infischiano del virus, e i giornali orientati più a destra a dire oh finalmente basta, fate bene, e anche Michele Serra qualche giorno fa a dire ecco invece diranno che il rispetto delle regole, la mascherina è di sinistra, mentre non rispettare di destra, insopportabile. Portabile. O se volete buttarla su questo piano, siamo qua, 800 24 00 24. Io trovo francamente un dibattito del genere insopportabile. Si pensa di ragionare al di là di destra e sinistra, ma con le proprie teste, perché si ragiona sia a destra e a sinistra se si vuole ragionare. Ma voglio chiamare in causa Gilberto Corbellini, che insegna storia della medicina e bioetica alla Sapienza di Roma, torna con noi. Buongiorno, professor Corbellini. Buongiorno. Grazie. Non si vuole lei buttare nel dibattito, lei di destra, sinistra, no. La mascherina, no. Per carità, sono temi che, come dicono gli Stati Uniti, polarizzano per loro natura, cioè quindi portano le persone a schierarsi, perché qualcuno dice... Però se ci, se ci penso, esatto, anche a livello mondiale è un po' così, Trump, sovranisti, è così. Però, ecco, a proposito di America, so che l'Huffington Post l'ha intervistata su questo tema, interessante perché il New York Times ha messo insieme una serie di studiosi, docenti di storia della medicina, proprio a capire ma quando finirà questa pandemia. Secondo l'analisi di diversi storici, ci sono due fine che devono, due termini della questione, quello medico e quello sociale, sui comportamenti. Intanto è vero, cioè, che una pandemia finisce prima a livello medico forse, e poi ci sono gli strascichi e finisce dopo a livello sociale come comportamenti? Ma intanto dobbiamo intenderci se parliamo di pandemia come percezione o se parliamo di pandemia come fatto. La pandemia come percezione può finire in qualsiasi momento, noi non vediamo più virologi ed epidemiologi in televisione e le persone abbassano talmente tanto la loro percezione del rischio che appunto fanno quello che gli pare. Poi c'è la pandemia come fatto, e questo è un altro problema, insomma, se noi continuiamo a trovare il coronavirus in giro adesso, i focolai che crescono di qua, i focolai che crescono di qua, qualche nuovo ceppo che riparte in Cina, ancora in Sud America alle prese con i cosiddetti picchi, eccetera, allora questa, diciamo, finirà soltanto quando o avremo un vaccino o il virus si sarà stufato di darci noia. Anche se qualcuno comincia a dire che si vorrebbero conoscere anche questi positivi in Italia, cioè lei non trova giusto che ci possa essere una specifica maggiore? Perché dire tot sono positivi, ma chi sono? Quanti anni hanno? Sono già malati? Che sintomi hanno? Sono contagiosi? Cioè sono tutte domande che cambiano la questione. No? Lo so, ma queste domande probabilmente troveremo risposta più avanti, quando potremo analizzare con calma i dati. Adesso quello che un poco prevalentemente conta nella comunicazione è dare dei numeri molto generali per dire sta calando, sta ricrescendo, attenzione, senza appunto ad andare ad analizzare nel dettaglio chi sono gli attuali positivi, se sono appunto persone adulte, asintomatico, asintomatiche, eccetera. Quindi questo sarebbe un aspetto davvero molto importante per capire le dinamiche poi e anche gli elementi di rischio per la ripresa di focolai. Sì, anche perché bisognerebbe capire una cosa riguardo a tutti i positivi e alla situazione. Se tutte queste persone si affollano, se tanto mi dà tanto e se il virus è, continua a essere contagioso, dovremmo avere, che ne so, un'esplosione di casi nel giro di 14 giorni, sia dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia, sia adesso con la gente che si affolla nelle spiagge. Se non sarà così, che cosa ne potremmo dedurre? Guardi, in questo momento fare di queste previsioni, usando dei modelli o anche i dati a disposizione, ha lo stesso valore che consultare i fondi di caffè, francamente, perché noi abbiamo già visto, dalla vicenda di tutte le persone che hanno preso il treno a Milano e sono andati al sud alla vigilia del lockdown, e quindi tutti a dire vedrete tra 15 giorni il sud sarà invaso del coronavirus e il sud è stato invaso del coronavirus. Quindi ci sono delle dinamiche di trasmissione che noi ancora bene, diciamo, non comprendiamo, perché poi ci sono delle variabili di cui i modelli non tengono minimamente conto, comportamenti individuali, tutta una serie di cose anche molto dettagliate su come le persone interagiscono tra di loro, eccetera, per cui può benissimo essere che effettivamente noi ormai siamo in una fase dove avremo, diciamo, il virus che si presenta con queste macchie di leopardo, ma non si diffonde più. Allo stesso modo in cui si è diffusa, che consideriamo che le vie di diffusione e i morti che sono stati fatti sono stati prevalentemente gli ospedali e le RSA. Quindi una volta che il virus ha fatto la sua mietitura, scusi il termine, di morti in una serie di ambienti dove i suscettibili alla malattia, non tanto all'infezione, alla malattia, quindi quelli che possedevano al massimo lo più grave, erano, diciamo, più concentrati, può essere che adesso la situazione invece è cambiata nettamente. Sì. È per questo che lei, anche nell'intervista alla Huffington Post, non ha criticato, come fanno molti, la scelta di paesi come la Svezia, dove si dice hanno permesso al virus di circolare. Però lei ha usato questa espressione mietitura, che lo so che è molto brutale, ma proprio per dire anche in Svezia hanno avuto questo atteggiamento a dire teniamo un po' le porte aperte, ovviamente dicendo ai cittadini comportatevi bene, il distanziamento sociale. Lo so che è brutale dirlo, ma è nella logica delle cose che qualcuno muoia. Guardi, che dopodiché, se noi, andando avanti, non è improbabile che noi scopriremo, e già se si fanno dei paragoni tra alcuni paesi che sono tra loro comparabili, come Gran Bretagna, Svezia, Francia, Italia, Germania, anche a livello, diciamo, di alcune caratteristiche del sistema sanitario, vedremo che il lockdown ha avuto un'influenza non particolarmente significativa in termini di riduzione della mortalità, e che quindi i paesi che non hanno scelto il lockdown, o quelli che hanno scelto il lockdown, poi alla fine forse hanno pagato lo stesso prezzo in termini di morti, ma in più quelli con lockdown hanno pagato anche un prezzo in termini di destabilizzazione sociale ed economica. Quindi lei dice non è detto, non possiamo dire che sia stata la ricetta giusta, anche perché giustamente col lockdown tutti stanno, e questa è la storia e lei la conosce a menadito, insomma è il vecchio sistema, state a casa, separatevi, quarantena, però non è che il virus così smette di circolare, quando poi a un certo punto si riprende ad andare in giro il virus magari c'è ancora, no? Comunque può essere sempre che nel momento in cui si chiude tutto, e comunque si chiude magari in ritardo perché si fa il lockdown sull'onda di una grave, diciamo, mortalità, e quindi comunque il virus continuerà, un po' perché circolano nelle famiglie, eccetera, a fare i suoi morti, poi alla fine che invece non ha fatto il lockdown ci mette più tempo, diciamo, a registrare o a pagare un prezzo in termini di mortalità, e però in generale l'esito, sempre parlando di mortalità, di impatto sanitario del virus, potrebbe essere equivalente. Noi ci siamo basati molto su dei modelli, ma poi la realtà non è che da retta ai modelli. Professor Corbellini, per concludere, perché lei sobbalza quando sente i paragoni con la spagnola, per esempio, la grande influenza che ha? Ma intanto, perché se ci fosse stata la spagnola non so cosa sarebbe successo. Cioè, ci avrebbero chiuso in cantina, non in casa. La spagnola ha avuto un impatto enorme sul piano di mortalità sanitario, I medici, la comunità medica non sapeva quale fosse la causa, non c'era alcun rimedio e quindi si sono fatti appunto tutta una serie di interventi in termini di quarantena. Dopodiché abbiamo a che fare con due virus che sono biologicamente molto diversi, uno un virus dell'influenza e l'altro un coronavirus, quindi semmai il paragone potrebbe essere fatto, se vogliamo, con la influenza russa del 1889, che infatti qualcuno sostiene che fosse dovuta a un coronavirus e che infatti uccideva, e ne ha uccise circa un milione o anche di più, uccideva prevalentemente vecchi e bambini. Mm-hmm. Quindi questo è il paragone, sarebbe il paragone più, sì, più adeguato. Questo potrebbe essere, cioè, noi quando facciamo dei paragoni storici dobbiamo comunque capire che cosa vogliamo trovare, cioè cosa ci interessa. Ci interessa il comportamento umano rispetto alle infezioni, ma allora possiamo andare anche alla peste del 300, oppure vogliamo vedere capire le dinamiche biologiche e sociali, certo, in termini complessi. Allora dobbiamo avere dei termini di confronto che siano comparabili. Comparabili. Io professore la ringrazio, vedremo quando finirà questa pandemia. Devo dire una cosa, che già le persone non ne vogliono sentire parlare come non so, a marzo, ad aprile, quando non si parlava d'altro. Adesso se ne parla tanto, ma c'è questa infodemia, l'abbiamo denominata così, ce la denominava così il professore che abbiamo ospitato, linguista, la scorsa settimana. C'è questa infodemia, sicuramente è stato il virus più mediatizzato e più diffuso dal punto di vista della comunicazione della storia. Ringrazio il professor Gilberto Corbellini, che insegna, docente di storia della medicina e bioetica alla Sapienza di Roma, è anche collaboratore del Sole 24 Ore, spesso lo potete anche leggere sul Domenicale con degli articoli molto interessanti in tema di storia della medicina. Che dire, la mascherina è di sinistra, mamma mia ragazzi, però devo dire che effettivamente se uno ci pensa, Trump è contro la mascherina, Sgarbi, gli sgarbi sono contro la mascherina, Libero dice tutti finalmente liberi dal virus, accusano Salvini di essere un po' contro la mascherina per cui se la tira giù per fare i selfie, insopportabile per me questo dibattito. Mascherina di sinistra, antimascherina di destra, ma in Italia è così, bisogna tutto dividere tra milanisti e interisti, juventini e anti-juventini, e quindi a lei continuiamo con il tifo e anche sulla mascherina. Andiamo intanto alla pubblicità, poi ci raggiunge Leonardo Manera e poi iniziamo a parlare anche di turismo. Ma sapete che nella Riviera Romagnola hanno trovato un albergo che dava le camere a 9 euro è pochino, 9 euro, insomma, ne parlava il Quotidiano Nazionale. Noi tra poco sentiremo la responsabile, insomma, degli albergatori di Rimini, che torna con noi. 9 euro, no, una camera 9 euro, certo poi tutto il resto te lo devi pagare, però 9 euro è veramente poco. Si rilancia così il turismo tra poco. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, siamo qui alle 9.35 minuti e c'è Leonardone Manera, speriamo sia silenzioso. Non lo so, se ci sono, oggi sono silenzioso ma non so se ci sono, quindi diciamo di sì, ma è quella presenza impalpabile. No, non ho niente, il frigorifero mi è rimasto completamente vuoto. Vediamo cosa c'è nel frigorifero, cioè, oggi. Hai mangiato l'insalata da lì da 15 giorni? No, l'ho dovuto buttare via, mi sono rimaste. No, erano un po' tempo. Ho invitato ma non sono venute. Allora, adesso nel mio frigorifero sono 4 uova e della salsa di pomodoro sono sempre le uova che erano fresche qualche giorno fa. Esatto, sono sempre quelle. E poi ho 2 zucchine e mezzo. Questo è il contenuto del mio frigorifero di oggi. Frittata con le zucchine oggi. Chi vuole andare a casa Leonardo Manera a pranzo e anche a cena, sì, fritta, spugnona con le zucchine. La spugna con le zucchine. Sì. Vabbè, mamma mia, che amarezza. Ma perché non vai a fare la spesa? Guarda che c'è molta depressione e amarezza in questo rifiuto del mondo. In questo frigorifero? Ma non è il rifiuto del mondo, è un periodo che non ho voglia di andare a fare la spesa, quindi poi... Sì. Anche perché andare a fare la spesa ti obbliga a un contatto umano magari non desiderato con altre persone che magari vedi essere risolte, persone che vanno con la famiglia, mamme felici, bambini sorridenti, e questo ti obbliga a un confronto anche non voluto con altre persone che magari hanno una vita anche appunto più risolta della tua, quindi meglio evitare e questo confronto che potrebbe creare appunto ulteriore amarezza. Grazie Leo, sei il migliore nell'amarezza. Vabbè ragazzi, abbiamo cominciato bene la settimana, ma sei tu che mi hai portato su questa strada. Io non volevo, sei tu che malignamente mi hai portato su questa strada perversa dell'amarezza. Vabbè. Allora, si può rilanciare il turismo vendendo una stanza in hotel a 9 euro nella Riviera Romagnola? Sappiamo che la Riviera Romagnola da sempre ha dei prezzi concorrenziali rispetto, ci vogliono bene comunque rispetto ai Liguri, per esempio, alla Toscana, no? Saluto Patrizia Rinaldis che torna con noi, presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini. Buongiorno, presidente, eccoci. Buongiorno a tutti. Posso fare un invito a Manera? Sì, noi invece abbiamo seppie appena consegnate fresche dal bagnino, i frigor pieni, e sicuramente non offriamo pasta al pomodoro o minestrone come quell'albergo in questione. Ecco, esatto. Quella, già sentite, quella, allora, l'invito è aperto. Leonardo, fai tu. Non ho capito bene, un invito ad andare a Bellaria? Adesso io sono di Rimini, ma va bene anche Bellaria. Ecco, su Rimini, ma va benissimo perché hanno consegnato fresche il bagnino, hanno seppie appena pescate e lumaconi hanno consegnato, per cui non offriamo sicuramente pasta al pomodoro. Dai Leonardo, su, esatto, e soprattutto vengo Leonardo, il prossimo fine settimana vengo, però per ricambiare mi porto un po' di passata di pomodoro di quella che lì da 10 giorni, così la smastico, facciamo dal pesce al pomodoro. Ecco. No, effettivamente non... Presidente, so che vi siete un po' adombrati, pensi che quell'albergatrice, credo, l'albergatore ha detto, ma le ho vendute anche a 6 euro alcuni giorni la stanza, a 6 euro, ragazzi, ma 6 euro, vabbè, mi dica lei, Rinaldi. Io dico che sicuramente uno non può sentirsi orgoglioso di dire certe cose. Il turismo ha un valore, lei ha detto bene. La Romagna è sempre stata competitiva, ma un conto è essere competitivi e un conto è svendere completamente una vacanza. Il problema secondo me grosso è questo, che questo è un albergo classificato 3 stelle, mentre i servizi che offre probabilmente sono da ostello. Allora se uno sceglie un ostello a 9 euro, 9,50 euro, ci sta, ma non fa una concorrenza leale di questo tipo con servizi, non è serio, con servizi che non vengono rispettati. Io credo che questa sia una comunicazione mendacia e soprattutto di persone che non amano il nostro territorio. Io vi faccio solo un esempio, perché bisogna capire, a rifare una camera, intanto è obbligatorio cambiare le lenzuola, quindi uno non può dire no, io non le cambio perché chiaramente faccio pagare poco, ma rifare una camera, il personale, ci vogliono solo a rifarla 6 euro, ok? Rifarla, cioè il costo del personale. No, ma guardi, allora, effettivamente, allora intanto per correttezza va detto che tutto il resto in quell'albergo si paga, cioè dal caffè al pranzo, cioè si paga all extra. Sì. Però se fosse una strategia di marketing, cioè a dire è chiaro che vado in perdita sulla camera, però attiro qualcuno. Chi è l'imprenditore? Intanto non è che va in perdita, cioè va completamente in perdita. E io questo non vorrei sapere chi è quell'imprenditore che lavora per andare in perdita. Quindi non faccio commenti. Non hanno un albergo questi, ne hanno molti alberghi. E non è neanche corretto che lo stesso albergo in certi momenti è su Booking a 120-130 euro. La stessa identica struttura, questa è la prima cosa. Seconda cosa, non può essere una strategia, perché non si coprono mai i costi. E io credo che l'imprenditore debba avere. E in più diamo un'immagine di una Romagna che non rispetta gli imprenditori, in un momento poi come questo, dove il costo della sicurezza ha un valore. Io prima sentivo la trasmissione, c'è comunque apprensione, avete visto il turismo, quanto ne stia soffrendo, messaggi di questo tipo sicuramente non mi danno né qualità né sicurezza. Se è un ostello, io sono cosciente, prendo un ostello, ma non offendiamo così gli imprenditori locali. Quindi tra infatti l'altro, so che lei è molto molto arrabbiata su questo, Leo, che sono arrabbiata. No, dicevo che tra l'altro credo che non funzioni nemmeno per i potenziali clienti, cioè chi sono quelli che si sentono di andare in vacanza in una struttura a quella cifra? Probabilmente immaginano che ci sia qualcosa che non va, non so se è un modo di attirare la clientela. È talmente bassa che diventa sospetta, perché dici, beh, ma cavolo, 9 euro, allora che tipo di servizio mi verrà garantito? No? Qualcuno lo sceglie, ripeto, gente, la Riviera è molto grande, ma non spacciamolo né per un 3 stelle né per una qualità. Per cui non le chiamo neanche imprenditori questi. La Romagna è ben altro. Se lei vede le immagini, oggi è pieno i giornali di questa polemica, le spiagge piene, distanze sociali annullate, niente mascherine, e io ho lanciato anche questo dibattito, ma c'è sui giornali, sembra diventato che la mascherina sia di sinistra e chi se ne frega sia di destra. Lei lo vede con preoccupazione questo affollamento, oppure dice meno male? Mi piacerebbe dire che mi fa piacere, ma in realtà io adesso parlo per la nostra zona. I distanziamenti, noi abbiamo adottato i 20 metri quadri rispetto ai 12 della norma, per cui abbiamo distanziamenti molto molto più ampi. Non abbiamo visto questo ammassamento qui sul nostro territorio. Io capisco però, e le dico anche questo, che c'è voglia, soprattutto sulla spiaggia, di tornare a una certa normalità. Poi vedo invece nelle strutture alberghiere, negli alberghi, molta più apprensione, quindi si entra con la mascherina, vedo che rispettano, cioè il luogo chiuso viene rispettato maggiormente, il luogo aperto ti dà un po' il senso dell'apertura, ti dà il senso, il mare in sé per sé comunque ti porta a passeggiare, a voler vivere, a far finta che non sia successo niente. Sì, senza mascherine. Ma ci sono questi turisti, cioè cominciano a vedersi, i tedeschi sono tornati per esempio, oppure… Allora, i tedeschi sono stati i primi, ma anche sono tornati. Tornati è grosso, però è quelli che hanno l'interesse, perché sono affezionati ai nostri territori, quindi sono i primi che hanno chiamato, hanno chiesto, però parliamo veramente di numeri ancora molto piccoli, molto bassi, e con un italiano, io lo sto dicendo continuamente, è un'Italia che si gioca l'Italia, cioè il turismo italiano è quello che in questo momento fa gola a tutta l'Italia, e di conseguenza per forza è quello su quali, ad esempio la nostra provincia, Rimini, ha una fidelizzazione dell'italiano intorno al 70%, quindi molto alta, molto più alta rispetto al turismo straniero, e in questo caso soprattutto tedeschi. Tanto la Russia abbiamo visto che probabilmente bloccherà ancora i voli, e tutto il resto è molto molto aleatorio. E in questo momento ce lo giochiamo, abbiamo ancora alberghi chiusi sul nostro territorio, ma noi parliamo di un territorio che nella provincia è 2.400 alberghi, il 50% è chiuso ancora. Per quello chi viene la vacanza, chi vive la vacanza adesso la vive in piena libertà, ecco, al di là del vero, cioè, si è soli, non c'è affollamento, insomma, si gode una nuova vacanza, ma stiamo provando anche un nuovo modello di vacanza sul territorio, nel senso mangia quando vuoi, mangia sulla spiaggia, abbiamo convenzionato gli alberghi di tutto il territorio, nel senso di proprio far vivere una vacanza diversa, ma gli spazi le hai, cioè noi abbiamo la fortuna di avere gli spazi, non abbiamo spiagge piccole, i 20 metri quadri rispetto ai 12 comunque hanno un valore, chi viene dice non sembra vero, e paradossalmente abbiamo moltissimi turisti che vengono dalle zone più colpite, quindi dal Piemonte e dalla Lombardia, e per loro è una boccata di ossigeno in tutti i sensi, è una boccata. Sì. Ma non a 9 euro, ma non voglio neanche, ripeto, io ho visto le dichiarazioni che hanno rilasciato, sono un'offesa per, io auspico che in una categoria ostello ci sta, in un 3 stelle no, di queste diverso, purtroppo le vediamo, ogni tanto le vediamo, in molti casi, non in tutti, non sono proprio imprenditori del turismo. Chi ama la propria terra ha l'orgoglio e la rappresenta con orgoglio e non sa più cosa dare al turista. La cosa che gli ho detto prima, il bagnino mi ha portato le 7 e che oggi dico guarda, 5 ho 7 persone io, quindi sì, parlo in prima persona, guarda le 7 appena pescate te le facciamo. Ecco, questo è l'orgoglio di rappresentare il nostro territorio. Certo, la vicinanza anche rispetto per il territorio. Sì, eh? Uno non può prendere pomodoro e minestrone, adesso, neanche degli altri. Io una delle mie ultime vacanze le ho fatte a Riccione, ho fatto un incidente, però voglio tornare per esorcizzare anche. Dopo racconto come avvenne quell'incidente, non grave, ma Intanto salutiamo e ringraziamo Patrizia Rinaldis, presidente dell'Associazione Obbligatori di Rimini, e dopo il traffico, per rimanere in, come dire, in argomento, l'incidente a Riccione di Malera, anche dobbiamo fare traffico. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus-free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. 1, nessuno, 100 Milan. Ci siamo? Alle 9.50? Allora, Leo, vuoi raccontare brevemente? Perché sì, poi brevemente. Allora, ero a Riccione con mio figlio, ero andato alla reception e dovevo entrare nel parcheggio. Nel parcheggio c'era la sbarra per entrare nel parcheggio. Mi ha dato la tessera magnetica. La tessera magnetica però era smagnetizzata. Io continuavo a metterla dove c'era il lettore, ma la sbarra non si alzava. E mio figlio, accanto a me, continua a dire «Papà, sei tu che non sei capace! Papà, non sei capace! Papà, papà, faccio io che tu non riesci! Non sei capace! Papà, non riesci!» Io mi sono innervosito, sono andato in retromarcia a tutta velocità e ho centrato in pieno una BMW che era ferma lì parcheggiata, fortunatamente senza guidatore. È uscito il custode di Beniamino, quindi è uscito il custode dell'altro hotel dove c'era il cliente che era il proprietario della BMW, mi ha detto lo avverto io, mi è arrivata poi su WhatsApp, io ho lasciato il numero, mi è arrivata su WhatsApp la foto del proprietario che era uno palestrato di 1,90 m, mi sono spaventato tantissimo, ho detto questo mi vuole picchiare, fortunatamente mi ha riconosciuto e poi tutto si è risolto. Adesso Pino, metti una base allegra perché dobbiamo recuperare un po', vai, vai. Allora, ieri domenica a pagina 7 del Corriere della Sera c'erano due opinioni sull'andamento del coronavirus. L'epidemiologo Tirani affermava che una buona dose di ottimismo si può ricavare anche dal fatto che i nostri dati certificano che di media un tampone su due risulta debolmente positivo, quindi da lui una buona dose di ottimismo. Accanto a lui l'immunologo Abrignani affermava che invece non possiamo ancora permetterci di essere ottimisti. L'epidemia è in fase calante, affermava, grazie a distanziamento e mascherine. È l'unica ragione per cui il virus infetta meno. Stessa pagina del Corriere della Sera, giornale autorevole, due opinioni direi contrapposte. E in tutto questo l'italiano medio come me come si deve comportare? A chi deve dare retta? Deve vedere il bicchiere mezzo pieno? Deve vedere il bicchiere mezzo vuoto? Oppure deve continuare a riempire il bicchiere di alcolici per superare lo sconcerto nel vedere opinioni così divergenti, tanto da non sapere più come comportarsi? Chi si stringe la mano invece di darsi l'imbarazzante colpo di gomito? Deve sentirsi un delinquente incallito che attenta alla sicurezza sociale oppure può timidamente ricominciare a farlo? Al mare, dove da qui in avanti si ricomincerà ad andare, davvero c'è qualcuno che pensa che si possano veramente rispettare le regole di distanziamento sociale? Oppure quelle regole vengono enunciate e ribadite solo per avere la coscienza a posto e poi casomai poter dire «io l'avevo detto», come le più insopportabili degli amici o dei falsi amici? In Liguria, per esempio, si può pensare di mantenere il distanziamento sociale in spiaggia e poi di non affollarsi uno accanto all'altro nelle passeggiate, nei caruggi. Se si fa un giro in qualsiasi città, si può vedere come la vita di fatto sia tornata normale per quasi tutto, tranne che per le mascherine, che più per formale rispetto delle regole che per reale convinzione addobbano in modo sinistro le facce di quasi tutti, e per la febbre che con quelle pistole viene misurata all'ingresso dei locali. La febbre non deve superare i 37,5, altrimenti vieni messo alla porta come il più pericoloso degli untori. Ma tutti quelli che hanno un bambino, per esempio, sanno che, soprattutto i primi anni di vita, la febbre può venire anche solo per avere preso troppo caldo oppure per uno sbalzo di temperatura da condizionatore. Io, se fossi un buon truffatore, cercherei di mettere sul mercato delle pistole misuratrici di febbre che non segnano mai più di 36,5 per poter garantire a tutti l'ingresso nei locali. Eppure adesso ci affidiamo a quei feticci per essere formalmente a posto. A me l'altro giorno all'ingresso di un locale ha misurato la febbre, risultava che avessi 34. Siamo sicuri di affidare tutto a quelle pistole misura febbre, ma c'è un senso comune, anche un desiderio di ottimismo generalizzato che fa parte del senso comune, al di là del parere dei scienziati, al di là dei DPCM, al di là dei droni che ci volavano sopra la testa. Ecco, questo senso di ottimismo ci fa agire in un modo o nell'altro. E gli italiani, tranne poche eccezioni, hanno intuito, hanno sentito giustamente, a mio parere, che non possiamo farci ammazzare dalla paura prima che dal coronavirus, che forse c'è ancora, forse non c'è più, forse si è così indebolito che anche lui per tirarsi su avrebbe bisogno di un buon aperitivo in compagnia. Altrimenti continuiamo ad aspettare Godot, e chi ha visto l'opera di Beckett sa che non è la scelta migliore per la vita e, tutto sommato, nemmeno per andare avanti ai tempi del coronavirus. Bravo Leo, sai che io ti appoggio, non so se questo sia di sinistra o di destra, però tu hai fatto una scelta, hai fatto una scelta troppo tranchante tra mascherine e non mascherine, perché è vero che c'è chi la mette e chi non la mette, ma poi c'è tutta la fase, ci sono tutti quelli che la mettono in modo differenziato. Sì, quindi chi oppure la tiene c'è sul collo di destra o di sinistra, chi la tiene un po' diciamo sollevata. Così, chi sminuisce, dice ma basta sto colore, è di destra, questo secondo questa insopportabile divisione. Chi invece è ligio, dice no aspetta, bisogna aspettare, seguire l'epidemiologo che è a Brignano, sarebbe di sinistra. Insopportabile questo modo di vedere, no? Non lo trovo insopportabile. Sì, no, io ripeto, bisogna capire come sono quelli che la tengono un po' sollevata, sotto il naso, sul collo, sì, sulla fronte, sulle orecchie. Cioè, la figlia del mio amico ieri ha detto: mi fa venire le orecchie a sventola sta mascherina. Ci sono tutte delle patune degli adolescenti. Vabbè, questo dai, andiamo al giornale radio. Vabbè, andiamo io le orecchie perfette, mi vengono a sventola. Le mie orecchie sono perfette, però l'unica cosa. Dopo buona il giornale radio, lo smart working. Torniamo sul tema dopo che il sindaco Sala ne ha parlato. Vai. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. 1, nessuno, 100 Milan. Signori, questa è la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, abbiamo tanti altri temi da affrontare. Qui se ci chiamate all'800240024, Leonardo Manera oggi è stranamente silenzioso, non ha azionato aspirapolveri, non ha azionato niente. Devo dire che però è arrivato un messaggio di una cara amica, sì? Vai Leo. Aspetta che lo no, dico non voglio disturbare oggi, sono ligio qui alle regole di Radio 24, radio seria, giusto, e non voglio contaminare coi miei rumori. Va bene, pensa per esempio se nella trasmissione Focus Economia ci fosse uno che da fuori si fa il caffè din din din, din, oppure fa schiaccia bottiglie, sarebbe stupendo, ecco. La sonorizzazione dell'economia, non so, diminuiamo l'IVA per il caffè e tu fai il caffè, diminuiamo l'IVA per gli aspirapolveri. Lo proporrò a Sebastiano Barisoni. Proponi. Allora, Aurora Lussana, grande amica, grande Aurora, combattente, prima o poi ti chiamiamo, ti ributtiamo in questo circo, dice Manera lo porto io a fare la spesa dal contadino e l'amarezza quando spala la pollina, ovvero la merda di gallina, gli passa al primo canto del gallo. Ti ci vedo dal contadino con Aurora Lussana a fare la spesa. Andiamo a fare la spesa con Aurora Lussana, che ho il frigorifero vuoto. Adesso però vogliamo capire cosa significa la potenza del marketing. Abbiamo parlato di turismo, ecco, se uno ha la fortuna di avere, pensate, i Ferragnez, cioè Chiara Ferragni e Fedez, che vanno in un luogo e postano una foto dicendo siamo qui, oh, ragazzi, succede l'inferno. Francesco Migliore, buongiorno. Francesco, buongiorno. Migliore. Buongiorno a Francesco tutti. Migliore, buongiorno. Calciatore, tra l'altro. Anche. Anche calciatore nella Cremonese. Però titolare della The First Luxury Rooms, Suite and Apartments. Dove esattamente? Dove siete? Alle Cinque Terre, in Liguria e a Spezia. Abbiamo 16 stanze, 4 strutture. E sì, come dicevi, abbiamo avuto questa fortuna di poter accogliere, diciamo, la coppia del momento. Diciamo così. I Ferragnez. Esatto. Ma quindi siete risultati? Cioè, sì. Il risultato, cioè, dire che è stato un successo è dir poco, perché hanno proprio messo in luce le nostre strutture e hanno mandato in tilt i miei collaboratori. Dunque, no, è tutto positivo ovviamente, però magari vi aspettate 2-3 numeri, giusto che le dico anche, abbiamo avuto sul sito 100.000 visite in un giorno e diciamo che noi viaggiamo sui 500-1.000 al giorno di solito sul nostro sito internet, 1.200 richieste di prenotazione in 24 ore, 700 chiamate in un giorno. Cioè, non so se vi rendete conto, cioè, basta una foto, ma d'altronde è la potenza del marketing. Sì. Poi sui social, su Instagram, per esempio, noi eravamo da un annetto sui social, avevamo 3.000-3.500 seguaci, adesso ne abbiamo 31.000. Cioè, magari uno non si rende conto, ma per esempio il Mandarin Oriental di Barcellona, che comunque è una catena di lusso, ne ha 32.000. Cioè, siamo passati dall'anonimato a diventare una delle realtà magari in Italia a livello di strutture ricettive. Per noi è stato veramente un boom incredibile. Sì. Ma questo successo, secondo lei, è dovuto al fatto che hanno visto la vostra struttura e quindi sono stati attirati alla struttura, oppure perché vogliono andare nello stesso posto dove sono stati Ferragni e Fedez? Ma noi abbiamo la fortuna di essere un territorio, il territorio è bellissimo delle Cinque Terre, è molto instagrammabile, dei borghi così sul mare, abbiamo delle stanze con delle vista mare e delle colazioni incredibili, dunque sicuramente dopo una fase di lockdown dove la gente è rinchiusa in casa, adesso ha bisogno di vedere cose particolari che danno emozione, noi lavoriamo soprattutto su quello. Chiara Ferragni. No, chiedevo se dopo la parola instagrammabile le prenotazioni resteranno, qualcuno l'ha portato a disdire. Instagrammabile è stupendo. Instagrammabile, sì, ragazzi, termine, dobbiamo abituarci. È un termine nuovo, ragazzi, No, tra l'altro, però è straordinario. No, quello che chiedeva a Manera è interessante, cioè Francesco, capire se la gente è davvero attratta dal posto, che è meraviglioso, non c'è dubbio, poi insomma le Cinque Terre lo sappiamo, o se è proprio per dire ho dormito nel letto dove hanno dormito i Ferragnez, cioè c'è anche questo. C'è anche questo, assolutamente, c'è anche questo, però io studiando un po' anche questa coppia, che comunque non è che viene solo nella mia struttura ricettiva, va anche in altri posti, e vedevo un po' l'evoluzione delle altre strutture ricettive, e decisamente sono molto minori, cioè altre strutture hanno preso migliaia di follower, noi ne abbiamo preso 30.000. Dunque è chiaro che... Quindi di base bisogna avere una struttura di livello. Assolutamente, non è che loro vengono, ti fanno una pubblicità immensa, perché è come passare su Rai 1, perché hanno 20-30 milioni di follower, questo è chiaro, però dall'altra parte un follower cos'è? È una persona che deve provare emozione e seguirti la tua pagina, entrare nel nostro mondo. Non è detto che gli fai vedere una cosa, lui voglia per forza seguirci, dunque abbiamo avuto un boom un po' per il territorio, un po' per le strutture che sono bellissime e soprattutto grazie a questa coppia incredibile. Certo. È interessante anche il tema del lusso, perché è un settore che tira moltissimo. So che molti diranno: ma come, ci sono gli italiani uno su due che neanche riescono ad andare in vacanza. Ragazzi, però, cioè, il lusso è da sempre un settore economico che attira molto in Italia. Attira, certo, prima attirava soprattutto tanti anche stranieri. Adesso purtroppo gli stranieri per il momento arrivano, cominciano ad arrivare i primi stranieri che prenotano, oppure arrivano. È chiaro che quest'anno la clientela sarà prevalentemente italiana, però, cioè, voglio dire, noi cerchiamo di lavorare, è chiaro, con lusso, un target molto alto, però gli italiani è chiaro che non sono abituati a spendere cifre come 700 800 euro a notte, però magari per l'anniversario, per un momento particolare, un regalo, i 10 anni di matrimonio in un luogo incredibile, la gente ha voglia di vivere queste esperienze qua. Dunque è chiaro che un italiano di solito non rimaneva una settimana nella mia struttura, però grazie a questa coppia qua che ha fatto vedere, ha messo in luce un po' le nostre strutture, l'italiano può anche venire un giorno, magari una stanza anche più economica, non abbiamo solo stanze da 500-700 euro, abbiamo anche delle stanze più economiche, magari con delle viste laterali o allora Spezia, dove c'è il comfort della città, i ristoranti, e dunque anche lì l'italiano può comunque andare a spendere qualcosina in più, se c'è il servizio ovviamente. Certo, no, ma stupendo, insomma, questo è, insomma, se si parla ovviamente, appunto, caro Leonardo, di stanze di lusso, di... A me capitò un episodio spiacevole in zona 5 Terre, dopo lo racconto. Eccolo lì, ragazzi, vabbè, insomma, no, ma devi capire, Francesco, che dovunque noi andiamo in Italia, Leonardo Manera ha un episodio spiacevole da raccontare. Prima parlavamo della costiera romagnola e ha fatto un incidente a Riccione, ma è fatto così, insomma, il problema è Leonardo Manera, non sono gli altri. No, noi, Francesco Migliore, grazie, complimenti, insomma, ho saputo che la Cremonese ieri ha perso, ma vi rifarete. Questo sì, grazie a Francesco Migliore, titolare della The First Luxury Rooms, Suites and Apartments, che a Manarola ha ospitato i Ferragnez. Cosa ti devo dire, Leonardo? Vuoi dirlo adesso? No, dai, il traffico e poi l'episodio spiacevole, dove esattamente? Le 5 a Levanto. A Levanto, va bene. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe, un unico partner, mille risorse. Uno, nessuno, 100 Milan. Ragazzi, devo dire, scusate se rido, ma vedo ora la foto che Leonardo Manera mi ha dato nella chat del frigo oggi. A parte che la zucchina, così vista da lontano, sembrava un'altra cosa, devo dire. Io pregherei Lorenzo Nespoli, se possibile, di pubblicare la foto, forse l'ha già fatto, se non l'ha già fatta, è totale autorizzazione, caro Lorenzo, di pubblicare la foto sulla pagina Facebook di Uno Nessuno 100 Milan. La foto del frigorifero di Leonardo Manera, signori. L'ha già messa Leo sui suoi social, ma se vuoi possiamo condividerla sui nostri. Sì, sui nostri, perché c'è stato un periodo durante il lockdown. Grazie. In cui ciclicamente mettevo la foto del mio frigorifero con quel poco che conteneva e molti la commentavano. Sì, ma adesso è un po'. Ha ragione Nespoli, è destrutturato, è quasi un'opera d'arte, cioè, è un'installazione. La zucchina, è un'installazione, la zucchina soprattutto. Cos'è quella cosa rosa a destra? Ah, è una carta, dell'uovo. Sembra un salmone rancido da lontano. No, è un pezzo di cartone che è rimasto lì perché ho aperto la confezione e ogni tanto lascio i pezzi di cartone nel frigorifero prima di buttarli. Vabbè, andate a vedere sui social la foto del frigorifero di Manè, ragazzi. Poi mettetevi in tanta tristezza perché questo è. Vabbè, Leonardo, cosa è successo alle Cinque Terre a Levanto? Correva l'anno 2004, più o meno, 2004-2005, insomma quegli anni. Ero stato a fare lo spettacolo a Levanto. Io allora lavoravo, per lavorare usavo sopra la camicia, mettevo una camicia azzurra e sopra un gilet rosso senza maniche, al quale ero molto affezionato perché avevo fatto le prime due mie edizioni di Zelig con quel gilet, quindi ci tenevo, era un maglioncino rosso senza maniche ed ero affezionato. Finito lo spettacolo sono andato a fare come di consueto qualche fotografia con quelli che la desideravano, qualche autografo, e avevo lasciato il mio maglioncino rosso senza maniche dietro il palco appoggiato su una scaletta. Quando sono tornato il mio maglioncino rosso non c'era più, qualcuno me l'aveva rubato. Vabbè, che amarezza. E in più, prima dello spettacolo ero andato a cena in un ristorante di Levanto e avevo conosciuto una cameriera che mi piaceva abbastanza. Allora mi ero un po' arrangiato. Mettiamo la base a Mara, sì che qua ci sta. Allora avevo cercato di conoscere questa cameriera e poi le avevo detto: ma magari quando finisco lo spettacolo e tu finisci di lavorare vengo qui davanti al ristorante e ci vedo. Esatto, è una cosa così, a che ora smonti? Io finisco lo spettacolo verso le 11 e lei mi ha detto: io finisco verso le 2 di notte. Io ho detto: va bene, dai, vengo verso le 2 e ci vediamo. Lei mi ha detto: sì, vieni. Quindi finito lo spettacolo ho aspettato fino alle 2 di notte, mi sono piazzato con la mia macchina, una station wagon Peugeot color rosso fegato, davanti all'uscita del ristorante. Ho aspettato fino alle 2 aspettando di vederla uscire, ma lei non è mai più comparsa, probabilmente era andata via prima. Io sono rimasto lì da solo con la mia Peugeot rossa. Mamma mia, che dolcezza fegato. Pensavo fosse più Manera. Ragazzi, questo è il clima. Vogliamo salutare. Allora, andate alle Cinque Terre, sì. Questo era il mio contributo alle Cinque Terre. Andate alle Cinque Terre e non portatevi gilet. Vogliamo salutare Arianna Visentini che torna con noi, presidente di Variazioni, società che in Italia è specializzata nella consulenza aziende che si organizzano in chiave smart, lo smart working. Buongiorno Visentini. Grazie. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, facciamo risentire il sindaco di Milano Sala, che prima ha detto attenzione all'effetto grotta per chi lavora in lavoro agile, e poi è tornato sulle sue parole, sentite un po'. Noi stiamo perdendo tanto lavoro e tanta occupazione, è ovvio che se la gente sta in casa qualche ripercussione c'è. Io non è che me la prendo, ci mancherebbe altro, sono stato io il primo a dire in Comune di Milano faremo smart working, però dico anche, attenzione, lo smart working è una leva di flessibilità, non è una modalità normale. Allora, Visentini, il sindaco Sala comincia a dire si pensi di rientrare, ha paura forse che ci sia questo effetto grotta e diventi normale, poi uno si riduce col frigorifero come Manera, no scherzo, questo non c'entra niente, che ne pensa? Ci siamo espressi più volte, non solo io ma tutti, diciamo, gli esperti che si occupano di questo tema, nel ribadire che la flessibilità è destinata a diventare normalità, e il sindaco Sala credo che lo sappia bene perché i suoi collaboratori lo sperimentano da diverso tempo, così come altri dipendenti in Italia. E il tema è che in questo lockdown abbiamo scoperto che si lavora in modo altrettanto efficace rispetto all'ufficio e anzi le persone tendono a lavorare anche di più. Quindi adesso voi avete fatto un'indagine a riguardo, credo, cioè a dire che i manager, per esempio, che lavorano per obiettivi, li raggiungono questi obiettivi pur stando a casa, no? Mi sembra di capire. Assolutamente, li raggiungono i manager e i manager dichiarano che i loro collaboratori li raggiungono. E questi dati che comunque noi avevamo accumulato anche prima del Covid, quindi fino appunto a gennaio, febbraio, in decine di migliaia di questionari sono stati confermati anche dai questionari somministrati durante il Covid. Quindi le persone hanno detto: certo, con qualche difficoltà, però ci siamo riorganizzati, siamo riusciti a lavorare, e anche i loro responsabili hanno confermato che in effetti i risultati sono stati raggiunti e siamo attorno all'85-90% delle persone, manager e collaboratori, che dicono che vorrebbero continuare a lavorare in smart working. Sì, oggi leggevo sul Quotidiano Nazionale anche i dipendenti pubblici, è stato fatto un sondaggio e credo, non so se 90%, ma comunque moltissimi vorrebbero rimanere a casa. Ma io dico, ma se ci abituassimo a lavorare in termini di produttività, non so, Leonardo Manera cosa deve produrre per noi? Deve essere qui, si spera in maniera simpatica, dalle 9.30 alle 11. Io posso assicurare che da quando c'è il lockdown, eccetera, Leonardo Manera ha acquisito una simpatia, l'abbiamo detto mille volte, perché non deve più entrare in metropolitana, non deve più stressarsi, non deve prendere la macchina, non arriva scontroso. Cioè, a lui ha fatto molto bene il lavoro agile. Ma chi lo vuole più vedere in redazione, per esempio? Questo è il motivo reale, perché non mi volete più vedere. È un modo per estromettermi. Cioè, va calibrato caso per caso, no, Visentini? Magari ci sono anche quelli che si imboscano, però, nel lavoro agile. Sì, sì, va calibrato assolutamente caso per caso, quindi tutti dobbiamo trovare un po' l'equilibrio che ha trovato Manera con voi, che non è detto che sia però il lavoro da casa. Ecco, l'equivoco dal quale dobbiamo un po' non essere tentati è che il lavoro agile è il lavoro da casa. Non è così, le persone probabilmente adesso non viaggiano perché non si sentono sicure, perché comunque scelgono altri luoghi. Quindi il come tornare ad essere, diciamo, simpatici e raggiungere i luoghi di lavoro, i nostri uffici, però diciamo non perché ci dobbiamo andare, ma perché là siamo produttivi, è un po' la sfida di Milano, cioè lavorare nei parchi, l'andare anche sì a fare la spesa, quindi Leonardo deve decidersi a riempire il frigorifero, perché altrimenti non riusciamo a rilanciare, diciamo, l'economia senza uscire dal paradigma per cui dobbiamo muoverci in massa sui mezzi pubblici, andare negli uffici tutti i giorni, timbrare per sostenere l'economia milanese. Dobbiamo trovare delle altre modalità per far rivivere la città. No, un punto da sottolineare è proprio questo, come dice Arianna Visentini, perché si pensa all'effetto grotta, stare a casa, ma lo smart working è di coloro che lavorano, li vedete quando si va sul treno, non so, Milano-Roma, quando lo si prendeva tutti i giorni, gente che, manager che si attaccano, ma dipendenti, qualunque categoria di persone che si attacca e per 3 ore lavora, cioè quello è lavoro, non è che se uno ha una buona collegamento wifi, quando funziona può lavorare. Cioè tu, Leonardo, non è che devi scrivere un pezzo, devi essere in uno studio, puoi metterti su un treno, ti isoli e scrivi e crei qualcosa. Sì, quello l'ho sempre fatto. Però per chi fa lavori di tipo più canonico non c'è il rischio di non staccare mai, cioè che venga richiesto un lavoro ulteriore, eccessivo magari, e di essere disponibile a qualsiasi orario della giornata. Questa è l'altra, diciamo, è la dark side del lavoro agile, nel senso che in effetti molte persone dicono, addirittura risparmiando il tempo di viaggio, io ho lavorato anche un po' di più di quello che dovevo e mi sono ritrovato ad essere perennemente connesso. Però domanda Visentini, è davvero di più, oppure uno non calcola che magari stando può farsi una pausa di mezz'ora per andare a prendersi un caffè che magari in ufficio non può fare, quindi alla fine le ore lavorate non sono di più, cioè forse è più lungo il lasso di tempo della giornata in cui uno è impegnato, ma magari il numero di ore no? Ma potrebbe essere entrambi, nel senso che comunque la disponibilità giornaliera diventa molto più ampia, quindi è accaduto davvero che durante il lockdown alle 8 ci si preparava ad uscire e in realtà in casa alle 8 noi ci mettevamo alla scrivania, al tavolo, al divano e cominciavamo a lavorare. E però è anche vero che lì in mezzo, tra le 8 del mattino e le 8 di sera, noi riusciamo a farci stare appunto il caffè, la corsa, l'aperitivo. Quindi il tema è: non torniamo a lavorare, noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando, ci stiamo facendo il mazzo seriamente in modo anche efficace. Il tema è: venite a lavorare a Milano, che vuol dire venite a lavorare nei ristoranti, nei co-working, nei parchi, perché a Milano noi sappiamo come si lavora senza necessariamente timbrare il cartellino, ma questo è un messaggio diverso che è compatibile con una modalità di lavoro che mi sa che non sarà facilmente eliminabile, anche perché in questa fase ci sta anche un po' facendo sentire sicuri. Oggi tornare a Milano, sì, ne abbiamo tutti voglia, però non è così banale. Non è così banale. Poi c'è il grande tema di riflessione sul tema dei dipendenti pubblici. Effettivamente lì, finché non si sburocratizza questo dannato paese, l'ho sentito ancora agli Stati Generali, minore burocrazia, una barzelletta ormai è diventata, no? Nel senso che lo dicono tutti, bisogna sburocratizzare. Certo, se si sburocratizzasse, per cui non c'è bisogno di andare a fare la fila nell'ennesimo ufficio pubblico, e uno con una mail da casa risolve la questione e magari uno mi risponde in remoto anche via mail, invece adesso dovrò andare a fare un certificato di nascita, dovrò andare a fare una fila in qualche comune qua di Milano e perdere mezza giornata per fare un certificato di nascita. Ci fosse la possibilità con un click, pagando sì, anche. Sì. Io penso che il lavoro agile, se lo organizzassimo, e che è la cosa che nella pubblica amministrazione si sta tentando di fare, quindi le pubbliche amministrazioni che lo sperimentano in modo efficiente lo legano anche a degli obiettivi di efficienza in alcuni servizi, quindi come deve funzionare meglio l'ufficio relazioni pubbliche se introduciamo il lavoro agile, certo che deve essere così. Quello che però non deve accadere è che siccome dobbiamo far girare l'economia, allora torniamo tutti a chiedere il certificato in fila. Questo è veramente... esatto, ma insomma, per esempio una delle attività che a Manera piace, perché almeno vede delle persone, scambia quattro chiacchiere, lui cerca proprio le file, quei momenti di socialità che io... Questo è vero, mi piace parlare con le persone che sono in fila con me. Ma lei le zucchine le prende due volte al mese, io tre volte, cosa ne faccio delle uova scadute? Io ti vedo, io invece sono lì che abbasso gli occhi, mi innervosisco e mi sembra tempo perso. Va bene, ringraziamo Arianna Visentini, grazie, presidente di Variazioni, è sempre gentile, torneremo ad affrontare il tema. Dobbiamo sentire la borsa, poi ripartiamo con Raffaello dalla provincia di Milano, borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Allora, signori, 10:39 minuti. C'è Raffaello dalla provincia di Milano. Buongiorno Raffaello. Buongiorno Milan, buongiorno Manera. Vi rubo proprio due minuti sul sinistra, destra, mascherine, eccetera. Sì. Allora, vabbè, concordo con te sul fatto che catalogare a sinistra o destra gli atteggiamenti degli italiani sul fatto di tenere la mascherina e non tenerla sia assurdo, anche perché non dimentichiamoci che era di sinistra il concetto di superficialità all'inizio del coronavirus, quindi dove si diceva niente mascherine, non ci sono problemi, tutti a... Ma non era di sinistra, chi è che ha detto? Ma non era di sinistra neanche quello. Perché? No, assolutamente sì, non dimentichiamocelo, nel senso che c'era la destra. Io non sono, premetto, non è un'obiezione impregnata di ideologia. Mi ricordo che allora molti elementi di sinistra dicevano andiamoci a bere il caffè, andiamo a fare gli aperitivi, eccetera. La destra diceva il contrario. Io quello che non amo, Raffaello, è distinguere tra sinistra e destra, no, cioè c'erano delle persone che dicevano delle cose e delle persone che dicevano altre, ma perché di sinistra o di destra? Cioè, beh, però erano più degli esponenti politici di sinistra che in un certo momento hanno minimizzato. Io sono d'accordo anche con l'ascoltatore, ma, anche per dare contro a te, tra l'altro. Esatto. Se è per questo va bene, ma Raffaello c'è ancora? Sono qui, no, eccoci. Sono qui che ti ascolto. Sono qui che ti perché ascolto. Dici, cioè io, è questa la questione, non vedo perché dividere perché in sinistra o destra, ci sarà qualcuno che l'avrà sono state le sono gli stessi politici che fanno questa distinzione. Cioè quando alcuni elementi, mi correggo, della sinistra dicevano ma no, non è il caso che, chissà perché, tutta la sinistra, perché io seguivo i telegiornali, seguivo le interviste, mm-hmm. eccetera, dicevano che Salvini era razzista, io non ti premetto, non sono della Lega, che Salvini era razzista, sì, quando diceva che la Meloni era razzista, quindi al di là di questo, poi io mi sono gustato un bellissimo caffè senza mascherina, mantenendo le distanze dei tavolini, a fianco a me c'erano delle persone con la mascherina, poi io me la sono rimessa in tannosa, quindi io sono passato da sinistra a destra come Conte in un attimo, in questo concetto di sinistra e di destra. Il nostro ascoltatore Raffaello ha fatto il trasformismo della mascherina, va benissimo. No, ma grazie Raffaello, attenzione però, perché io voglio ritornare un attimo sul frigorifero di Manera. Ce lo puoi ridescrivere brevemente il tuo frigorifero, cosa contiene in questo momento? Vai veloce. In questo momento il mio frigorifero contiene quattro uova non ancora scadute, quindi ho quattro uova, poi c'è chiusa in un piatto una mezza fettina di pollo e poi di quanti giorni? Di due. E poi c'è questa zucchina, in realtà ne ho più di una di zucchina, comunque diciamo zucchina. Ho delle una zucchine. Ex zucchina. E una poi ex... c'è un po' di passata di pomodoro che però sarà qui almeno da 10 giorni. Ecco, questo è il tutto. David, il nostro mitico chef via Trionfale, Terra Matta di Roma. Buongiorno David. Buongiorno Milan, buongiorno Manera, buongiorno. Che ci facciamo con questi ingredienti che di Manera? Innanzitutto il pollo, io direi che con quei quattro uova da prendere il panallo, così insomma si può un po'... il gusto insomma e sì, così se no si può fare, ripeto, si può fare una bella carbonara, visto che c'ha le uova e c'è zucchina, carbonara che zucchina e porta a pulire il frigo, insomma, così fa una bella spesa pulita. È vero. Non so se è la pasta, però devo vedere se è la pasta. Senti, David, parliamo di cose. La pasta di riso. Mamma mia, ho ragazzi, la pasta di riso va bene ugualmente. La pasta di riso va bene per la carbonara, sì. Se fai il pollo panato e te fai le zucchine in padella, così ti fai il secondo sì, il contorno. Stupendo. Sì, il problema io è quelle zucchine le ho viste in Facebook, mi sembrano un po' delle ex zucchine. E il pollo ce ne parlava anche giovedì di questo pollo, quindi adesso sono due giorni che è lì, ma è giovedì, sono passati 5 giorni. Sai, vabbè, mi dispiace, David, farlo fuori. Vabbè. Parliamo più seriamente, oggi che ci fai al Terra Matta? Che veniamo tutti qua. Stamattina al mercato ho comprato sia alici che tonno. Il tonno non si poteva comprare stamattina, però stavo con l'offerta del pinna gialla, quindi... ho preso, se poteva fare. Che poi tu l'hai mai visto un tonno che c'ha la pinna gialla? Cioè perché nuota con la pinna gialla? No, io ho detto quando compri i tonnetti sono tutti grigi, non ho mai visto che la pinna gialla. Giallo rosso. I tonnetti quelli là grigi piccoletti che sono al mercato, mentre poi per tonno quello grosso, no, io ho sempre comprato il filetto di tonno, che poi è un pezzo di rene di sopra, diciamo, no? E comunque pinna gialla e pinna quell'altro non si può comprare. Quindi ma no, perché costava troppo? Oggi è pinna gialla 18, se poteva fare, però di solito sta a 24, sta a 26, così come Alice oggi l'ho trovata a 7 euro, di solito stanno a 8-9, dipende come gira il mare, comunque la gente si è rimessa a fare bagno, i pescatori escono di meno, comunque l'estate dovrebbe costare di meno, il pesce invece costa di più, paradossalmente conviene mangiare il pesce d'inverno, io lo dico sempre, solo che la gente c'ha la pista da mangiare il pesce d'estate. È macello, perché se ne trova poco, costa il doppio e fa pure strano, perché ti ripeto, alici che trovo io, che ne so, settembre-ottobre, sono da paura, belle, dure, dolce. Questa è la bella ricetta di David, mangiate il pesce d'inverno, che d'estate, perché state lì sul mare, volete il pesce, costa di più ed è meno buono. Non c'è sta, bisogna fare capocciata al mercato per 4 alicette sfatte, in macello la mattina, non c'è sta proprio il pesce. Capito? Poi la gente fa poco di miracoli, fa la moltiplicazione, capito? Come c'è quello surgelato? Io mangio sempre, anche d'estate al mare, chiedo pesce surgelato. Capito, però vado in gamberetto surgelato, no, se fai una pasta diventa tipo diventa mignone, ci puoi fare i tartini con i gamberetti surgelati. Com'è, scusa, la moltiplicazione dei pesci? Cioè mi dia un chilo di tonno e te ne danno mezzo. e te, no, lo fanno passare. No, guarda, ti ripeto, quando è estate, a parte che tra ghiacci, limoni, sedano, insalate per fanno questi banconi grossi, belli, ma poi alla fine dei pesci ce ne sta veramente. Poi io ripeto, c'ho Alice stamattina, ne ho prese un chiletto e mezzo, non è che ne ho prese tante, perché davvero erano tutte strane. Dicevo, ho prese stanotte e ho fatto, ho capito, ma non ci vedevi, perché sono tutte strane queste cose. Ma se ne dar buio, perché queste già erano morte, stavano a galla. Ma è possibile che hai preso stanotte sta lici? Ma non è possibile, no? Vabbè, ma che ci facciamo allora? Una bella pasta? O allora, no, le lici sono freschissime, però ci faccio la pasta, ci faccio una lice pangrattato, perché ti ripeto, quando sono bruttarelle e sono piccole, che muoio e pulisco, il tempo che pulisco metà me rimangono in mano, mi rimane il pezzetto di coda, che ci vuoi fare? Ci vuoi fare solo la pasta. Comunque faccio una bella tagliata di tonno e poi oggi, come piatto tradizionale, faccio una bellissima dama bianca, che sarebbe una gricia con acacio e pepe mischiata. Quindi stupendo. Tutto questo nel frigorifero di Manera rimarrebbe poi per 15 giorni. Poi tra 15 giorni dice: c'ho una gricia. Ma ragazzi, Leonardo, le cose vanno fatte, consumate e magnate. Adesso, non è che... aspetto qualche giorno per le uova, poi inviterò qualcuno quando sono in scadenza. Grazie a David, Terra Matta, Via Trionfale, veniamo presto appena si può. Intanto oggi io già ho l'acquolina in bocca, le alici, la tagliata di tonno, anche se le alici le ha prese uno che era accecato, praticamente ha preso delle alici un po' così. Vabbè, dai, andiamo al traffico. Vai. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free. Dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. 1, nessuno, 100 Milan. Oh, signori, siamo in rapida chiusura di questa puntata. So che è venuto a trovare Leonardo Manera, un avvocato, è l'avvocato Taglia la Tela, che è qui per risolvere i quesiti giuridici degli ascoltatori. Buongiorno, avvocato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono l'avvocato Taglia la Tela e sono qui per dar consigli giuridici, appunto. Prima il mio studio si chiamava Studio Taglia la Tela e Malinverni, che era il mio socio avvocato, il quale purtroppo però è mancato pochi mesi fa. Aia, perché gli hanno sparato. A volte difendere delinquenti può capitare, diventare delinquenti anche a noi avvocati, e al mio socio Malinverni è capitato così. Era diventato un delinquente egli stesso. D'altra parte, chi non è mai stato tentato di diventare un bel delinquente, guadagnare un bel pacco di soldi senza lavorare? Chi di noi non ha mai avuto la tentazione di fare una bella rapina in banca, per esempio? Io spero che ce ne siano sempre di più che hanno questa tentazione, così per noi avvocati ci sarà sempre lavoro. Io sogno un mondo pieno di delinquenti e di litigi, così il mio conto in banca non può che aumentare. Comunque, il mio socio Malinverni aveva ceduto al fascino della delinquenza, era entrato in un brutto giro di droga e prostituzione, vendita di armi, rapina a mano armata, si era fatto prendere la mano ed è finito male. Sono cose che capitano, pace all'anima sua. Fortunatamente sono riuscito a recuperare qualche mazzetta di contanti che aveva lasciato sparsa qua e là nello studio. Allora, comunque, oggi non sono qui per parlare del mio ex socio Malinverni, ma per dare consigli legali a tutti quelli che hanno bisogno, anche problemi di piccolo conto, perché io vado dalle liti condominiali fino alle accuse di strage, anche perché spesso i delinquenti più incalliti, quelli che finiscono per fare delle stragi, spesso partono dai litigi in assemblee condominiali. L'animo umano non cambia, cambia solo la disponibilità di armi. Lo diceva anche il mio ex socio Malinverni. Allora, cominciamo a risolvere i problemi. C'è l'amico Osvaldo da Varese, che ha avuto un brutto tamponamento, è stato tamponato con gravi conseguenze da una persona che guidava un furgoncino senza assicurazione, senza patente. Ora mi chiede come può comportarsi per ottenere giustizia e un giusto risarcimento economico. Allora, caro Osvaldo, esaminati gli articoli 1129, 427, 1456 del Codice Civile Penale, comma 1229 dell'articolo 333 dello Statuto Albertino, l'articolo 154 del manuale delle giovani marmotte, io consiglio all'amico Osvaldo da Varese di lasciar perdere e di non adire le vie legali, e gli spiego perché. Questa persona senza patente, senza assicurazione, se non avevi soldi per pagare assicurazione e patente, probabilmente non avrà denaro nemmeno per una qualsiasi forma di risarcimento, oppure se ce l'ha l'avrà nascosto per bene in qualche anfratto e non è certo intenzionato a renderlo disponibile all'amico Osvaldo. Se l'Osvaldo si inoltrasse in una causa, sicuramente otterrebbe ragione dal punto di vista formale, ma difficilmente potrebbe essere risarcito anche di un solo euro. A questo punto, per lo stress, subentrerebbero problemi fisici, sicuramente gastrite, chissà cos'altro, che graverebbero l'Osvaldo anche di spese sanitarie, impedendogli probabilmente anche di lavorare e guadagnare. So che siamo in chiusura, ma si verificherebbe quindi la classica situazione di danno emergente e lucro cessante, ben noto in giurisprudenza. C'è però un'altra strada, che è la strada maestra: contattarmi rapidamente per ottenere una o più armi da fuoco per recarsi a minacciare di persona il soggetto in questione, il quale, spaventato, sarebbe disposto a sborsare tutto quello che possiede, sia pur nascosto chissà dove, per evitare le giuste conseguenze della minaccia e per evitare un colpo d'arma da fuoco che comunque potrebbe inavvertitamente ma comprensibilmente partire. Insomma, è il potere magico della minaccia che io consiglio a tutti i miei clienti. Questo è il mio consiglio, il potere magico della minaccia dell'arma da fuoco, è il consiglio dell'avvocato. Taglia la tela. Con i prossimi consigli giuridici. Va bene, a Radio 24. Io non condivido quasi nulla di quello che ha detto, niente praticamente di quello che ha detto, però ci ritroviamo alla prossima. Grazie avvocato, e concludiamo qui. A domani. Nessuno, 100.000.